Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi in diretta dalla Fiera di Roda, la Fiera di Milano, per Matching, che è un evento nazionale organizzato dalla Compagnia delle Opere per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. In pratica un luogo nel quale le piccole e medie imprese, ce ne sono molte associate appunto alla Compagnia delle Opere, possono incontrare anche grandi protagonisti del mercato, per farci un'idea del mercato nel quale vanno ad operare. Insomma, è un'idea per trovare spunti nuovi per l'internazionalizzazione e per fare rete. Il numero per intervenire in diretta, come sempre, è il 349-238-6666. Di cosa parleremo oggi? Allora, inizieremo dalle tasse, maledette tasse, soprattutto le tasse locali, perché oggi il Sole 24 Ore in edicola ci presenta il conto di quanto andiamo e di quanto andremo a pagare quest'anno e negli anni successivi, con soprattutto questa incognita della local tax che incombe, ossia l'idea dell'esecutivo di modificare, di portare tutto a regime. Ricordo che l'ultima volta che si è portato qualcosa a regime accorpando una serie di tasse si è prodotta, tanto per dire, l'IRAP, della quale ancora adesso stiamo a discutere. Quindi è una cosa alla quale bisognerà prestare attenzione. Ne parleremo come sempre, come spesso facciamo in questi casi, con Gianni Trovati del Sole 24 Ore, per cercare anche di capire su cosa si stia orientando l'esecutivo. E a proposito di immobili, c'è la questione degli immobili di Stato, di come questi immobili vengono gestiti, e dunque torniamo al tema della spending review, il taglio della spesa, come effettuarlo. Come sapete, molte amministrazioni spendono soldi per affitti, per dei servizi per gli immobili nei quali si trovano, che costano troppo rispetto a quelle che sarebbero le medie di mercato. Voi direte, lo sappiamo benissimo anche noi, quanta gente ci mangia su tutto questo. Ebbene, oggi il Demanio ha fatto partire il monitoraggio di tutto questo. Le amministrazioni avranno tempo fino a giugno dell'anno prossimo per comunicare i dati, appunto, sugli immobili in affitto, su quanto spendono di energia, confrontarsi con determinati indici e naturalmente a quel punto ridurre i costi. Se non comunicheranno i dati, andranno incontro ad una sanzione, verranno segnalati alla Corte dei Conti e l'anno successivo scatteranno appunto delle sanzioni per le amministrazioni locali, che consisteranno essenzialmente in un taglio dei trasferimenti. Quindi finalmente arriva la sanzione, speriamo che questa volta sia la volta buona, perché così come voi, probabilmente anche io ricordo che questa operazione doveva partire, insomma, se ne parla da tantissimo tempo di questa questione degli immobili di Stato. Poi ci occuperemo di Matching, appunto, del luogo dove ci troviamo, e vedremo di capire innanzitutto come questo appuntamento e come appuntamenti di questo genere possono evidentemente supportare le imprese nel loro sviluppo, e ci occuperemo anche, avremo tra gli altri ospiti, oltre al presidente della Compagnia delle Opere, anche l'amministratore delegato di Microsoft in Italia, per capire come appunto anche la tecnologia può essere, evidentemente, come si dice con una frase quasi fatta, un volano di sviluppo per le piccole e medie imprese, con la solita magagna che conosciamo, una rete forse ancora non abbastanza veloce, forse anche la scarsa volontà da parte di una serie di piccole e medie imprese a mettersi sulla rete, ad utilizzare le nuove tecnologie, perché a volte, non sempre naturalmente, non riescono a comprenderne fino in fondo l'utilità. La giornata dei mercati, beh, eravamo positivi fino a metà giornata e poi adesso le borse sono negative: meno 0,29% il FTSE MIB, meno 0,22% il FTSE All Share, mentre vanno meglio le altre piazze finanziarie europee. Parigi guadagna lo 0,45%, Francoforte mezzo punto percentuale, con una giornata positiva in termini di calo dei rendimenti dei titoli di Stato e di spread. A questo arriveremo tra poco nei 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore in collaborazione con RDS, e poi ne parleremo anche a fine trasmissione per cercare di fare un punto e di tirare le somme di questa giornata. Come sempre, le notizie in breve di oggi. C'è già qualcuno che fa le battute al 349-238-6666, la local tax si chiamerà suppostax, perché è una tassa presunta e quindi supposta, specifica l'ascoltatore, non è male. Come sempre iniziamo dalle materie prime. L'oro sostanzialmente fermo a 1198 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, si segna un lieve rialzo per quanto riguarda il Brent, dello 0,05%, appena sopra gli 80 dollari al barile, scusate, e in lieve rialzo anche il WTI con consegna a gennaio, un più 0,25% a 76,7 dollari al barile. Da segnalare sul fronte del caro del greggio che la Russia perde tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno per il calo del prezzo del petrolio. Sono parole proprio del ministro delle finanze russo Anton Siluanov, citato dalle agenzie. Secondo fonti del Ministero, per sostenere il prezzo, Mosca potrebbe proporre all'OPEC una riduzione coordinata della produzione di petrolio, ma come vi abbiamo raccontato altre volte in Focus Economia, questa riduzione del prezzo del petrolio dipende da un attore specifico, che è l'attore più importante al momento, ed è l'Arabia Saudita. Quindi bisognerà vedere se l'OPEC ci starà mai ad una cosa di questo genere, perché rientra in una serie di ragionamenti naturalmente economici, ma anche strettamente geopolitici. Nei giorni scorsi, Royal Bank of Scotland, lo ricorderete, ha ammesso di aver commesso un errore nel calcolare la propria patrimonializzazione. Parliamo dei famosi stress test del mese scorso. E quindi risultava alla European Banking Authority che Royal Bank of Scotland avesse passato il test con una percentuale di capitale, di capital ratio, che è questo criterio che, sul quale si misura insomma la qualità della situazione della banca, del 6,7%, percentuale che invece scende dopo questa correzione al 5,7%, il limite è il 5,5%. Ecco, è arrivata dal Financial Times la notizia che Intesa San Paolo starebbe studiando un'offerta per comprare Coutts & Company, una storica banca del Regno Unito che esercita l'attività di private banking e wealth management per Royal Bank of Scotland. Ammonterebbe l'operazione a 500 milioni di sterline, circa 630 milioni di euro. L'economia europea ci racconta innanzitutto dei dati arrivati dalla Germania, un'ulteriore testimonianza delle grandi capacità dei nostri previsori. Ossia, gli analisti stimavano che l'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese tedesche, stimavano una discesa, gli analisti, per questo indice, un calo a 103 punti. Contro i 103,2 di ottobre. Bene, non è avvenuto, ma a queste smentite siamo abbastanza abituati. È salito a novembre a 104,7 punti, quindi una lieve ripresa per la Germania dopo 7 mesi consecutivi di calo. Ci sono comunicazioni della BCE, innanzitutto che ha acquistato al 21 novembre 12,7 miliardi di euro di obbligazioni garantite, in accelerazione rispetto ai 10 miliardi e mezzo di una settimana prima. E c'è una, direi anche qua, consueta dichiarazione del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che dice: non possiamo stimolare costantemente la crescita, le riforme strutturali sono l'unica via per migliori prospettive per l'economia. Queste le parole di Weidmann. Che è tornato anche, adesso ve lo trovo, a soffermarsi sulla possibilità di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, dicendo che ci sono grossi ostacoli alla possibilità che la BCE possa farlo. Rendimenti dei titoli di Stato, come si diceva, altro argomento importante di questa giornata, ci torneremo più avanti anche tra un attimo. Il rendimento dei titoli decennali spagnoli è sceso per la prima volta sotto il 2% all'1,966. Lo spread, ossia la differenza di rendimento con gli omologhi tedeschi, i Bund, è a 118,3 punti. Per quanto riguarda i BTP siamo al 2,18%, un nuovo minimo, e con uno spread a 140 punti contro i 144 della chiusura di venerdì. A proposito di Europa, ci sono le parole del Presidente del Consiglio che dice: i prossimi mesi saranno decisivi, noi siamo per tenere i conti in ordine, per il rispetto di bilancio, per il futuro dei figli e nipoti, ma anche per occuparci più di crescita e investimenti. Lo ha detto incontrando il cancelliere austriaco Werner Faymann. E dice: con Faymann condivido la frequentazione più alta mai avuta con un primo ministro in Europa, condividiamo l'idea di sviluppo dell'Europa, un'Europa che si occupi con più determinazione di cose come la disoccupazione, il lavoro, i giovani. Sentiamo Renzi. Condividiamo, questo è il punto, un'idea di sviluppo dell'Europa. Noi vogliamo un'Europa che si occupi con più determinazione della disoccupazione, del lavoro dei giovani, degli investimenti, che combatta la stagnazione e che investa sulla crescita. I prossimi mesi saranno decisivi per l'Europa. Io ne sono profondamente convinto, noi siamo per tenere i conti in ordine, noi siamo per avere rispetto per i nostri figli e i nostri nipoti nel bilancio, ma siamo anche per preoccuparci oggi di una maggiore attenzione agli investimenti e alla crescita, nella logica delle cose che ci hanno spinto ad appoggiare la presidenza di Juncker. A proposito della politica economica italiana, sotto la lente di Bruxelles, naturalmente, innanzitutto oggi è iniziato il percorso parlamentare della riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, da vedere se ci sarà la fiducia oppure no, anche se per il momento i lavori parlamentari procedono, naturalmente il ministro del lavoro Poletti ancora non lo ha escluso. Sulla legge di stabilità in arrivo un emendamento del governo sulle pensioni d'oro per coprire una falla della legge Fornero che riguarda i benefici soprattutto dei cosiddetti Grand Commis come i consiglieri di Stato e della Corte dei Conti. Poi c'è questa notizia che toccheremo più tardi, che riguarda i tagli di spesa, questa tagliola in arrivo sui costi degli immobili dello Stato, questo inizio di raccolta di informazioni da parte dell'Agenzia del Demanio. E il mitico tema del canone RAI nella bolletta elettrica. A parlare è il presidente dell'Autorità per l'Energia, Guido Bortoni, che a queste ipotesi di stampa, di un incontro col sottosegretario alle comunicazioni Giacomelli, dice: non abbiamo avuto convocazioni, nemmeno informali per ora. e ha ribadito di ritenere impropria e difficile una modalità di riscossione di questo genere. Tutto questo nel giorno nel quale la stessa autorità guidata da Bortoni dà il via libera alle nuove tariffe per l'acqua, interessano 40 milioni di utenti, quindi tutti. È stato deciso un aggiornamento medio rispetto all'anno precedente di un più 3,9% nel 2014 e un più 4,8% nel 2015. Di questi 40 milioni, 6 milioni riceveranno invece una riduzione in bolletta di circa il 10%. È arrivato il momento dei 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS. Oggi il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, ci parla di spread. Scopri le automatiche Saeco, con macine in ceramica per offrirti in ogni momento il tuo espresso autentico. Saeco regala Pellini. Regolamento su philips.it/promozioni. Vi presenta... I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Poco più di due anni fa, era il 9 novembre del 2012, lo spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi toccava il livello record di 552 punti. Erano i giorni in cui tutti abbiamo scoperto che quel numero non indica solo la differenza tra il rendimento dei nostri buoni del tesoro e quelli tedeschi. Lo spread dice quanto gli investitori considerano rischioso un paese, quanto lo considerano affidabile. In queste settimane, oggi in particolare, sul mercato dei titoli di Stato si respira un clima positivo. Lo spread è sceso in mattinata sotto quota 140 e il tasso del titolo decennale italiano negli scambi di stamattina ha continuato a segnare il minimo storico, come se la situazione di oggi fosse così diversa da quella di due anni fa. Eppure la nostra economia continua a essere in recessione, lo sarà quest'anno, probabilmente lo sarà anche l'anno prossimo. Ma i mercati non se ne preoccupano e il nostro spread scende, come se questo indice fosse ora completamente scollegato dal rischio Italia. E così in effetti è. Gli investitori, più che guardare a ciò che sta accadendo nel nostro paese, sembrano essere attenti ad altri fattori, in primo luogo a quello che Mario Draghi, presidente della BCE, ha fatto capire di essere pronto a fare, cioè sostenere le economie degli stati dell'area euro anche attraverso l'acquisto di titoli di Stato, con nuove emissioni di liquidità nel sistema economico. Insomma, le cose almeno per ora stanno andando meglio, ma non illudiamoci, perché visto che il merito non è nostro, la fiducia dei mercati se ne potrebbe andare tanto velocemente così come è arrivata. Eccoci col primo tema di giornata, le tasse locali, soprattutto le tasse dei comuni, le tasse sulla casa. Forse direte che ce ne occupiamo un po' troppo spesso, però signori, in questa condizione siamo. Troppe volte lo abbiamo raccontato quanto tardi sono arrivate le delibere dei comuni, quanta fatica anche solamente per pagare e soprattutto quanti soldi ci staccano. Poi arriveremo alla questione del demanio. Come vi dicevo, avremo il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, per parlare di questo monitoraggio su altri immobili, quelli di Stato. Fa bene, perché vi abbiamo anche raccontato in apertura che gli enti locali, nel caso non comunicassero per tempo quanto spendono, in sostanza rischiano di incorrere in sanzioni. Quali sono queste sanzioni? Mancati trasferimenti? C'è qualcuno che scrive: tanto alla fine si rivarranno sui cittadini e ci aumenteranno le tasse. Insomma, è una possibilità, una pratica abbastanza frequente. Gianni Trovati, nel Sole 24 Ore, eccoci, buongiorno. Buongiorno, anzi, buongiorno a voi, buonasera. Anzi, buonasera, mi sono sbagliato io. Allora, Gianni, avete oggi pubblicato 3 pagine, ancora una volta, su queste tasse locali che stanno diventando un po' una nostra ossessione, ma così è, inevitabilmente. Addirittura c'è gente che racconta abbiamo venduto casa pur di non pagare le tasse. Sì, esatto, perché finalmente, lo dicevi tu all'inizio, le delibere con le aliquote da parte dei comuni sono arrivate molto tardi nel corso dell'anno, perché molto tardi sono arrivate le regole definitive sulla TASI e sul suo incrocio con l'IMU nel 2014. Quindi finora si era discusso di rischi, mentre noi oggi, con l'aiuto dell'elaborazione del CAFACLI, diamo i numeri, diciamo così, definitivi, cioè reali, di quello che sta succedendo sulla base delle delibere comunali. In breve, che cosa sta succedendo? Prima di tutto, nel famoso derby tra l'IMU del 2012 e la TASI del 2014, per una casa di valore medio, sulla base appunto dei valori medi catastali registrati in ogni comune, bene, in 71 capoluoghi di provincia su 100 la TASI del 2012 è maggiore rispetto alla TASI del 2014 è maggiore rispetto all'IMU del 2012 pagata dallo stesso immobile. Quindi quel rischio aumenti, diciamo così, che avevamo più volte sollevato sulla base dell'analisi delle regole che erano state introdotte, si traduce in effetti, non è più un rischio ma è un aumento reale effettivo che sarà conguagliato con il saldo di dicembre. Naturalmente anche per quanto riguarda le seconde case, i capannoni e così via, c'è un aumento in tutti i comuni che applicano la TASI, perché la TASI, che su questi non prima casa, diciamo così, viene applicata nel 50% circa dei comuni, non fa altro che aggiungersi all'IMU e quindi si aggiunge a una dinamica fiscale che dal 2011 a oggi ha visto, a seconda dei casi, moltiplicarsi anche di 3-4 volte gli importi chiesti. Conseguenza, cosa succede? Ma prima di tutto pensiamo ai capannoni industriali in una fase di lunghissima congiuntura negativa. Se io sono proprietario di un'impresa con un capannone che è impresa che magari è in perdita o addirittura che è soggetta a procedura di liquidazione, fallimenti e così via, ma nel contempo io devo pagare una IMU o un IMU più TASI che è 3-4 volte tanto quell'ICI che pagavo prima. Che cosa faccio? In alcuni casi scoperchio il capannone, rendo di fatto non più diciamo così imponibile l'immobile, trasformandolo in un immobile, si chiama tecnicamente collabente, cioè praticamente in un rudere. Gianni, per uscire da questo problema. Con l'ulteriore impatto che il comune si è fatto un bilancio preventivo sulla base di incassare soldi da quel capannone e quei soldi non li incassa, quindi come dire, aggiungiamo ulteriore problema in termini di finanza pubblica locale. Esattamente, ma come è inevitabile che sia, quando tu entri in una spirale fiscale di aumenti che devono compensare tagli fatti da altri livelli di governo. Naturalmente, come abbiamo visto anche a livello centrale, per esempio con gli aumenti dell'IVA, non è che tu, aumentando un'imposta, aumenti in misura uguale il suo gettito, ma aumenti le difficoltà di pagamento. Quando l'economia tira, diciamo, l'aumento dell'aliquota può farsi tirar dietro, diciamo così, l'aumento del gettito. Quando l'economia non tira, spesso più tu aumenti l'aliquota, peggio vai dal punto di vista del conto. L'IVA è aumentata più volte di aliquota e nei momenti di aumento di aliquota il suo gettito è sceso. Senti Gianni, un'ultima nota ti chiedo su questa local tax, che a vedere dagli sms ci arrivano al 349-238-6666 anche giustamente un po' terrorizza i nostri ascoltatori, no? Perché quando si è proceduto in passato a semplificazioni o ad accorpamenti di tasse, penso al mitico caso dell'IRAP, in genere si sono fatti danni. Sì, l'esperienza recente dei contribuenti giustifica tutti i timori possibili, però Anche qui distinguiamo in due grandi capitoli: sull'abitazione principale, di fatto la local tax prevista, progettata dal governo, non c'è ancora il testo definitivo, assomiglia parecchio alla vecchia IMU, cioè si alza l'aliquota standard e però si introduce una detrazione altrettanto standard, cioè fissa e obbligatoria, che abbassa il conto per le case di valore medio-basso, perché ricordiamocelo, con la TASI il problema principale era l'assenza di detrazioni, poi si è detto le mettono i comuni, ma le regole erano talmente caotiche che in due comuni su tre non c'è nessuna detrazione, e quando non c'è detrazione l'effetto è peggiorativo sulle case di valore più basso, che sono però la maggioranza delle case degli italiani, mentre la TASI offre grandi sconti alle case di valore più alto. Sugli altri immobili invece problemi ce ne sono, perché si parla di un'aliquota massima possibile al 12 per 1000, che sarebbe molto più alto del tetto attuale, che è 10,6 per 1000 oppure 11,4 se si mettono le detrazioni sulla prima casa. La scommessa qual è? È quella di dare finalmente una imposta comunale di nome e di fatto, perché sappiamo che oggi l'IMU è per un pezzo ancora importante, è tuttora statale. E quindi si dice, con un'imposta interamente comunale c'è maggiore autonomia, quindi maggiore spazio di scegliere la politica fiscale, e maggiore possibilità dei contribuenti di giudicare se l'aliquota è troppo alta rispetto ai servizi, alla situazione generale del comune in cui è l'immobile. Queste teorie in passato non hanno dato grandi frutti, nel senso che gli spazi fiscali sono molto aumentati, ma la loro correlazione con i servizi non ha vissuto la stessa dinamica, e naturalmente il fatto che si introduca, se sarà confermato, un'aliquota massima del 12 per 1000 dà spazio a ulteriori aumenti. Vedremo come andrà a finire naturalmente anche questa vicenda della local tax, e ci terremo gli occhi addosso, statene certi. Grazie a Gianni Trovati, grazie a Sole 24 Ore, buona serata di nuovo. Allora, c'è chi ci scrive via sms al 349-238-6666, un ascoltatore, un caso, uno dei tanti casi su queste tasse locali, dice: venduto casa per poter ristrutturare una casa in campagna e il comune mi fa pagare la casa in campagna come seconda casa perché sono domiciliato presso un parente. Vabbè, qua siamo veramente al top. Pausa, poi ci ritroviamo e parliamo di altri immobili, come si diceva, immobili di Stato sui quali bisognerà fare i conti nell'ottica dell'ormai mitologica spending review. A tra un attimo. Nuovo, buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Oggi siamo in diretta da Matching a Roffiera Milano, un momento di incontro tra piccole e medie imprese e le grandi per definire strategie, capire un po' anche come girano i singoli mercati. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Intanto qualche sms che è arrivato sulla questione delle tasse locali. Giorgio scrive: guardi Giorgio, che il punto è esattamente quello, la vergogna non è il fatto di dover pagare, ma oltre ai servizi che arrivano anche diventare pazzi per sapere quanto pagare, c'è un problema di semplicità, e il racconto di Gianni Trovati mi sembrava da questo punto di vista esemplificativo, cioè è proprio difficile capire, tanto che un ascoltatore lapidario scrive: ma che casino. Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie, buonasera. Allora, l'abbiamo chiamata perché oggi avete annunciato che è partito quello che potremmo definire una sorta di censimento delle spese delle amministrazioni, per quanto riguarda gli immobili naturalmente. Devo essere franco, Reggi, quando ho letto appunto l'agenzia che diceva arriva la tagliola sui costi degli immobili di Stato, il Demanio fa partire la raccolta delle informazioni sui costi per l'uso degli edifici dello Stato e di terzi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, ho detto ma come non era già partito? Non era già partito, Reggi? Ma in realtà i costi energetici e i costi gestionali di questi stiamo parlando sono già in qualche modo sono già conteggiati all'interno del bilancio dello Stato, ma non sono messi in evidenza, non c'è un luogo dove sono raccolti in maniera sistematica e soprattutto dove vengono valutati per i loro riferimenti ottimali. Per cui quello che è partito oggi è la suddivisione dei costi energetici in termini di elettricità, gasolio, metano, GPL consumato e dei costi gestionali, guardiania, pulizia, conduzione e manutenzione degli impianti, tutto ciò che è manutenzione diciamo corrente sugli impianti e la conduzione delle abitazioni, cioè degli edifici, che una volta definite e raccolte in maniera sistematica, come stiamo appunto facendo, potranno essere confrontati nei confronti di dati standard ottimali. A quel punto ciascuna pubblica amministrazione centrale dovrà mettere in atto delle forme di razionalizzazione e comportamenti virtuosi per adeguarsi a questi indicatori ottimali. È compreso Reggi, anche il costo degli affitti in questo monitoraggio, o quella no, sono cose che avete già? È un'altra misura, un altro capitolo. Entro la fine dell'anno prossimo ciascuna amministrazione centrale, perché di questi stiamo parlando, non stiamo parlando degli enti territoriali ma dell'amministrazione centrale, dei ministeri in particolare, dovranno entro la fine del 2015 ridurre gli spazi attualmente occupati del 30% e contemporaneamente ridurre le locazioni passive, cioè quanto pagano in edifici privati, del 50%, almeno del 50%. Quindi sono tutte misure che si combinano assieme e che porteranno a un risparmio significativo della pubblica. Mi scusi, questo per quel che riguarda gli affitti, che riguarda solamente, ci diceva, le amministrazioni centrali, mentre sì. Invece il monitoraggio che parte oggi riguarda tutta la pubblica amministrazione, anche le locali. No, le locali, sempre le centrali. Il fabbisogno standard dei comuni, delle province, questo è già partito e addirittura è già online. Se voi andate sul sito opencivitas.it troverete il fabbisogno standard di ogni comune italiano e di ogni provincia italiana, con i riferimenti ai fabbisogni standard della spesa storica confrontati con le città e i comuni di uguali dimensioni, di uguali caratteristiche, quindi ogni cittadino può farsi un'idea di quello che è la spesa storica e il fabbisogno standard del proprio comune di residenza. E questo ha fatto bene a ricordarcelo, perché è un sito che è attivo, se non sbaglio, da circa una settimana più o meno, sì, insomma, qualcosa giorni, di questo genere, da pochi giorni. Arriveremo a fare altrettanto con i consumi, i costi energetici e i costi gestionali, quando avremo terminato di fare questa raccolta dei dati. Allora, il succo di tutto ciò, ossia quanto si risparmia e cosa rischiano le amministrazioni se non si adeguano, in questo caso le amministrazioni centrali, dopo il traffico. Altro caso ci arriva via SMS al 349-238-6666, segnalate, non vi preoccupate che poi noi archiviamo e ci ripensiamo. A proposito di tasse locali, Simone da Varese ci dice: sto ristrutturando la mia unica casa, sono ospite da mia madre e mi hanno detto che per questo la mia è la seconda casa e quindi ci pago l'IMU. Da denuncia. Allora, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, da questa operazione di razionalizzazione delle spese delle amministrazioni centrali, quanto ci si potrebbe ricavare? Perché poi è chiaro che evidentemente questi dati non li avete in mano se li richiedete alle amministrazioni medesime e quindi poi bisognerà vedere a consuntivo, però un'idea di massima ve la sarete fatta. Sì, beh, noi abbiamo un dato accumulato, quindi parliamo per esempio di costi energetici, siamo attorno al 1,1 miliardi complessivo, le azioni di razionalizzazione, i comportamenti virtuosi mediamente portano a una riduzione dei consumi attorno al 20-30%, quindi possiamo stimare una riduzione di 200-300 milioni di euro a regime. Per quanto riguarda invece i costi gestionali, parlo di guardianie, pulizia e manutenzione impianti, questo è un dato un po' più difficile al momento da stimare la sua completezza, per cui faccio fatica a fare una stima, però anche lì andiamo nell'ordine di qualche centinaia di milioni di euro, quindi sono risparmi importanti. Sì. Qualora le amministrazioni dello Stato si rifiutassero o comunque non facessero il loro dovere, ed è chiaro che oltre alla segnalazione alla Corte dei Conti ci sarebbe una riduzione di trasferimenti di risorse equivalente al mancato risparmio. Quindi un taglio di risorse a valere naturalmente sull'anno successivo. Ci chiedono cosa si intende per amministrazioni centrali, si intendono quelle non locali. Per esempio, ma voi stessi siete un'amministrazione centrale, no? Sì, anche noi. Anche le agenzie, anche se sono degli enti economici, pubblici economici, sono comunque degli enti centrali, così come sono anche le autorità, immagino, ecco, per esempio, tutte quelle, come dire, che non fanno riferimento appunto a comuni, province e regioni. Esatto. Questo per rispondere, sono gli enti territoriali. Per rispondere agli ascoltatori. Allora, grazie a Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, e speriamo che questa operazione finalmente vada in porto, così avremo chiarezza innanzitutto e trasparenza, perché poi questa roba verrà messa sul sito a consuntivo, sui conti delle amministrazioni centrali, capire quanto spende uno, quanto spende l'altra, perché una spende di più e perché una spende di meno, e chissà che poi in qualche caso non debba intervenire l'autority di Cantone. Grazie a Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, e noi adesso passiamo ai mercati. E a chi ci dice, sarebbe un po' lunga da dire, qualcuno spieghi a Renzi, per dire il governo, che ridurre i costi significa ridurre il PIL. Beh, guardi, qua non ci siamo, per come la vedo io. Se l'amministrazione spreca, deve smettere di sprecare, punto e basta. Se quei soldi vanno a taglio delle tasse, il PIL non si riduce, molto semplicemente. Cioè, no, non così semplicemente, è un po' più complessa di così, però insomma, l'ho fatta un po' brutale. Guido Maurino, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Meno 0,14% il FTSE MIB, meno 0,09% il FTSE All-Share, positive le altre piazze finanziarie europee. A metà giornata eravamo positivi, anche sopra il 0,5% di guadagno. Che cosa è successo? Sì, eravamo positivi perché sfruttavamo l'onda lunga delle dichiarazioni di Draghi di venerdì, poi è arrivato il presidente della Bundesbank, Weidmann, a gelare un po' gli entusiasmi, perché ha detto che non potrà essere sempre la politica monetaria a sostenere la crescita e non potrà farlo soprattutto da sola, quindi ha sostanzialmente in parte sconfessato quello che ha detto Draghi venerdì, e questo ha gettato, come dire, un po' di maggiore prudenza sui mercati finanziari. Questo ha avuto un impatto, Guido, anche sui titoli di Stato, perché stamattina le cose andavano piuttosto bene, insomma. Sì, anche sui titoli di Stato, dopo i nuovi minimi che avevamo toccato questa mattina, anche sullo spread abbiamo visto un po' di ripresa, anche se si tratta comunque ancora di uno spread di 140 punti base, un rendimento attorno al 2,2%, che è comunque molto basso. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Sui singoli titoli inizierei dal migliore di questa giornata, World Duty Free, un più 3,06%. Ci sono motivi particolari? Sì, ci sono alcune indiscrezioni di stampa relative a World Duty Free che rilanciano ipotesi di integrazione con operatori asiatici, integrazioni raccolte oggi dal Corriere Economia, secondo cui la società italiana che fa capo al gruppo Benetton starebbe cercando alleati soprattutto in Asia in ottica di fusioni e acquisizioni. Si tratta di operazioni che potrebbero rilanciare anche il gruppo, che arriva da comunque mesi difficili, soprattutto per le questioni spagnole che hanno portato a rivedere le attese sui margini, e per cui oggi il titolo si è ben comportato in borsa con questo più 3,06%. Banca Popolare Emilia Romagna più 2,33%, Banco Popolare più 1,92%, UBI Banca più 1,86%, la Pop Milano guadagna l'1,76%, bene Intesa San Paolo più 1,02%, in 30-40 secondi Guido, qua le banche non sembrano aver risentito poi delle dichiarazioni di Weidmann alla fine. Sì, in realtà hanno frenato un po' rispetto ai guadagni della mattina che erano ben più sostanziosi, ma hanno comunque chiuso nella maggior parte dei casi in terreno positivo. L'unica notizia che possiamo così segnalare è quella di Intesa San Paolo più 1,02%, perché sembra che la banca italiana sia interessata a rilevare una banca inglese attiva nel private banking, una società controllata da Royal Bank of Scotland che si chiama Coutts, che è stata messa in vendita proprio da Royal Bank of Scotland. In questa fase, certo, Intesa San Paolo è una delle banche che guarda questo istituto, però insomma è stata comunque una notizia positiva per la banca. Allora Guido, ti riprendiamo subito dopo la pausa il giornale radio per parlare di titoli negativi, tra cui Telecom Italia meno 3,8, Tenaris meno 3,08, 349-238-6666 per i vostri sms, a tra un attimo. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. In molti ci state scrivendo sul tema delle tasse locali, tema sul quale abbiamo aperto la nostra trasmissione, confermandoci anche quello che dicevamo: il tema non è quanto si paga, o meglio, è anche quanto si paga, ma è come si paga, il non sapere esattamente che cosa succede. Ci ha scritto prima un ascoltatore dicendo che mentre ristrutturava casa stava dalla madre e quindi sulla sua casa che stava ristrutturando ha pagato l'IMU perché ritenuta seconda casa. Un altro ascoltatore ci scrive adesso: ho fatto la stessa cosa e a me non è successo. Vedete che è là il problema, che non si riesce a capire dove e quando si debba pagare. Speriamo che con questa local tax annunciata si arrivi finalmente a una razionalizzazione di questo sistema fiscale. Questo è altro, se volete tutti i temi li potete commentare al 349-238-6666. Prima chiudiamo l'appuntamento di borsa e poi vi ricordo ancora una volta che siamo in diretta dalla fiera di Roda, la fiera di Milano, per Matching, un appuntamento organizzato dalla Compagnia delle Opere che possiamo, io la dico molto semplicemente e molto brutalmente, serve a mettere insieme le imprese, aiutarle a fare rete, ai piccoli capire dai grandi come ci si muove sui mercati. Insomma, ne parleremo tra un attimo. Però chiudiamo con la borsa e con Guido Maurino di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Guido, eccoci di nuovo. Eravamo sui titoli negativi, a partire da Telecom Italia, meno 3,86%. CDA di Telecom venerdì ha dato un mandato al management per analizzare una possibile fusione fra Team Partecipação e la controllata brasiliana e Oi, proprio per fondere le rispettive attività in Brasile. Inoltre l'amministratore delegato Marco Patuano ha informato il board di aver presentato un'offerta per la quota di maggioranza di Metroweb. Si tratta di due operazioni che da un lato rilanciano la strategia anche industriale di Telecom Italia, ma la società per il momento non ha chiarito bene come intende finanziare queste operazioni. Oggi diversi analisti si interrogavano sul fatto di un possibile aumento di capitale che si renderebbe necessario per finanziare le due operazioni. Gli aumenti di capitale mediamente non piacciono alla borsa e così si spiega il meno 3,86% di oggi. Giù anche Tenaris, oggi un meno 3,08%, Saipem del 2,02%, Terna del 2,01%, Mediolanum dell'1,5%. Una domanda Guido, oggi è arrivata la notizia che Generali si è aggiudicata con una gara europea la copertura assicurativa danni e responsabilità civile di Expo 2015. È una grande commessa, ha avuto un impatto sul titolo questo oppure no? No, perché è una grande commessa in termini assoluti, ma non per un gruppo come Generali. Si tratta comunque rispetto a quello che ha i premi che ha un'assicurazione come Generali di una cosa abbastanza modesta. Peraltro era già anche stata anticipata nei giorni scorsi da alcune discrezioni di stampa, per cui l'impatto oggi direi che non c'è stato. Grazie a Guido Maurino di Radio Corre Il Sole 24 Ore. Un brevissimo riassunto per chi non c'era prima della pausa e prima del giornale radio. Le borse hanno chiuso in negativo, meno 0,14% il FTSE MIB, meno 0,09% il FTSE All Share. Positive le altre piazze finanziarie europee, Parigi in guadagno di 0,5%, Francoforte altrettanto. Tutto questo perché Milano è scesa dopo che a metà giornata era positiva, perché era partita da brivio sulle parole di Draghi nel fine settimana, e poi è arrivato il presidente della Bundesbank Jens Weidmann a dire è difficile che la BCE possa acquistare titoli di Stato, e questo naturalmente ha dato una bottarella per così dire ai mercati, anche se naturalmente la posizione del presidente della Bundesbank era nota, insomma era semplicemente ribadita oggi. Veniamo al tema, la vicenda per la quale ci troviamo qua alla Fiera di Milano, il luogo dal quale vi trasmettiamo, ossia Matching. Allora, Matching alla sua decima edizione, manifestazione organizzata dalla Compagnia delle Opere, vedrà impegnate fino al 26 novembre 1000 aziende provenienti da tutte le regioni italiane e anche da paesi esteri. 15 aree tematiche, edilizia, finanza, agroalimentare, sanità. L'idea appunto è di mettere insieme queste aziende e in 20 secondi che poi andiamo in viabilità, Bernard Scholz, presidente della Compagnia delle Opere, farle dialogare, mi sembra di capire. Bisogna farli parlare sulle domande che hanno, come arrivare ai nuovi mercati, innovare i prodotti, i processi, come lavorare meglio insieme, come creare rete, trovare nuovi clienti. Tutte queste domande urgono, per la maggior parte le piccole e medie imprese sono importantissime. Il matching vuole dare una risposta mettendole insieme, non solo dando delle risposte accademiche che sono pure importanti, ma soprattutto facendoli scambiare esperienze e informazioni. Workshop, incontri di varia natura aiutano in questo. Il primo giorno già si sta confermando che il metodo è utile. Che il metodo funziona. Allora ci prendiamo una pausa, il traffico, e poi è già in studio con noi anche Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia, con il quale, visto che tra l'altro la Compagnia delle Opere associa molte piccole e medie imprese, voglio capire quali sono le sue valutazioni rispetto a queste imprese e al loro atteggiamento nei confronti del digitale e appunto dell'innovazione. Una pausa, il traffico, a tra un attimo. La metto giù banale. Il mondo sta cambiando e sta cambiando velocemente. È tutto più veloce oggettivamente. Cambia il metodo di approvvigionamento dai mercati, la cosiddetta supply chain, cambia il metodo con il quale ci si rapporta con i clienti, cambiano gli ordini, il ritmo degli ordini, che prima aveva aspettative un po', si potevano avere aspettative un po' più lunghe, adesso magari vanno addirittura di mese in mese, se non in alcuni casi di settimana in settimana. Voglio chiedere a Bernard Scholz, presidente della Compagnia delle Opere, se al di là del fatto che voi qua a Matching li state aiutando gli imprenditori a capire anche questo, se questo è un messaggio che è passato o se il cambiamento è ancora troppo recente ed è stato troppo rapido per essere stato assorbito pienamente da questo mondo. Diciamo, se siamo in una fase di cambiamento, alcune imprese l'hanno capito perfettamente, stanno innovando, stanno anche applicando dei processi di digitalizzazione e diventano anche molto più competitivi, tra l'altro creando occupazione, perché non è vero che la digitalizzazione diminuisce l'occupazione ma rende le imprese più forti, più competitive e quindi le mette in grado di assumere. Evidentemente c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento, però noi vogliamo dare un segnale positivo progetti, vogliamo portare esempi, questo è anche il metodo del nostro dialogo, vogliamo portare esempi virtuosi in modo che chi è ancora un po' indietro vede che è possibile cambiare, perché la testimonianza è sempre un metodo importante, perché non basta fare la lezione su ciò che bisognerebbe fare, bisogna dimostrarlo, bisogna far incontrare persone che hanno fatto questa esperienza, anche parlando delle fatiche che si fanno nel cambiamento, perché non dobbiamo illuderci che qualunque cambiamento crea anche la necessità di fare dei sacrifici, e penso che questo sia molto utile e proficuo. Perché voi in sostanza qua cosa fate? Cercate anche di mettere insieme, appunto, come si diceva, grandi aziende e farle parlare con le piccole, cioè spiegargli come affrontare i loro mercati di riferimento. Sì, perché noi pensiamo che l'orientamento sui mercati sia fondamentale, bisogna conoscerli, e le grandi aziende normalmente hanno delle esperienze molto interessanti anche sui mercati internazionali, comunicando queste loro esperienze rafforza anche l'orientamento delle piccole e medie, o come fornitore, come partner o come player singoli sul mondo, perché le piccole e medie imprese italiane hanno un potenziale incredibile, sono riconosciute per la loro qualità, per la loro capacità di essere di curare il dettaglio, di fare cose che altri non fanno dal punto di vista dell'estetica, e quindi bisogna sostenerli, rafforzarli, e soprattutto bisogna crederci. Questo è un altro punto importante, qua si respira un clima di fiducia, dobbiamo uscire dalla lamentosità di parlare solo delle cose che non funzionano e concentrarci su ciò che va, non togliendo minimamente la conoscenza e la consapevolezza dei problemi, però la cosa è indirizzare energie verso una costruttività. Carlo Purasanta, amministratore delegato di Microsoft Italia, da lei vorrei capire che responsabilità hanno, se così vogliamo chiamarla, se vogliamo chiamarla responsabilità, perché le piccole e medie imprese nel ritardo che ormai è assurto la dimensione di mito dell'Italia sulla digitalizzazione, sulla capacità di affrontare le nuove tecnologie, sulla capacità anche di sapersi innovare e di mettersi le nuove tecnologie in casa. Buonasera, innanzitutto. Buonasera. Non direi che le piccole e medie aziende hanno accumulato più ritardo di altro della pubblica amministrazione, penso che sia una problematica un pochino generica. Vabbè, in Italia. Però se mi prende come termine di paragone la pubblica amministrazione, ovviamente. Anche rispetto alle grandi, cioè comunque è in maniera generica la spesa in Italia sull'information technology è più bassa che in altri paesi, sì. Siamo alla metà rispetto alla Francia e alla Germania, un terzo rispetto agli Stati Uniti e ai paesi nordici, quindi comunque c'è un gap che va recuperato. Allora, le aziende italiane, quando gli si chiede ma per voi il cloud e l'informatica sono cose strategiche importanti per il futuro, nel 2014 risponde di sì una su due, che è già molto meglio di 3-4 anni fa, dove lo sapevano ovviamente uno su 5. Il problema, appunto, per dire qual è il gap, però, negli Stati Uniti è il 98% la stessa domanda, quindi però insomma su questo uno su due noi possiamo già abbiamo già un terreno fertile per andare a portare questa innovazione. E per questo noi cerchiamo di aiutare le piccole e medie aziende sul territorio, non soltanto a Milano, Roma, le grandi città, ma dappertutto, aiutare con eventi e anche luoghi fisici per portare innovazione. Da cosa dipende questo gap, questa distanza? Adesso lei ha preso gli Stati Uniti, che naturalmente da questo punto di vista sono molto avanzati. Però la Francia e la Germania sono vicini, però quindi se saranno al doppio di noi vuol dire che c'è un gap. Da cosa dipende esattamente? Ma un pochettino secondo me anche dell'abitudine dei nostri consumatori di andare ancora, no, nel negozio in prossimità e di avere la relazione umana prima di comprare o comprando, piuttosto che andare su internet, quindi l'e-commerce in generale è a dei livelli più bassi, però sta cambiando a grandissima rapidità, e anche il fatto di avere degli smartphone oggi aiuta le persone e li abitua a conoscere, a comprare, a fare le cose in maniera diversa, nella vita personale come negli acquisti, come al lavoro. E quindi vuol dire, questo qui non è che si può fermare il progresso e che in Italia si continuerà a fare senza internet. No, internet è pervasivo, è ovunque, e quindi bisogna che tutti imparino a farne qualcosa, anche le aziende e anche le aziende piccole, soprattutto in questo momento in cui la tecnologia, grazie alla tecnologia del cloud, costa molto di meno e quindi permette oggi a una piccola azienda di fare la digitalizzazione dei processi, quindi cambiare come opera, lei parlava prima di logistica, di processi digitali, ma anche semplicemente come lavorano le persone tutti i giorni. giorni. Due persone su tre in Italia lavorano già più del 50% fuori dalla sede lavorativa. Vuol dire che bisogna dargli delle applicazioni su smartphone, tablet, PC che gli permette di essere efficace in un nuovo modo nelle loro interazioni con i clienti, con i fornitori e in tutte le cose che fanno. Il cosiddetto smart working, del quale come dire, sostanzialmente manca un quadro normativo decente per renderlo veramente operativo. Scholz, un'ultima domanda sul tema proprio dei ritardi delle piccole e medie. Qua, attenzione, non è che si sta facendo un processo alle piccole e medie imprese, si sta semplicemente ragionando, sapendo che abbiamo anche molti piccoli e medi imprenditori tra i nostri ascoltatori, su cosa fare attenzione quando si guarda in casa propria, perché non è che tutto arriva dal mondo cattivo. Certo, c'è uno Stato che ti vessa dal punto di vista fiscale, certo, c'è la recessione, però c'è anche appunto un mondo che cambia, probabilmente delle opportunità da cogliere. Lei parla di una necessità di uscire dalla lamentazio, no? Sì, io penso che il passo decisivo è di avere un focus veramente rigoroso sui mercati. Perché le aziende italiane hanno delle offerte assolutamente interessanti, però bisogna parlare con i clienti, bisogna conoscerli, bisogna ascoltarli e bisogna trovarne dei nuovi anche in altre zone del mondo. Questo è un orientamento che va rafforzato, perché spesso i prodotti fino a pochi anni fa erano così vincenti che quasi si vendevano da solo. Oggi non è più così. E poi la seconda questione è: bisogna innovare anche i processi produttivi, i processi gestionali. Vi faccio un esempio: noi abbiamo delle aziende che sono veramente grandi, eccellenti, ma a cui manca una contabilità industriale. E questo fa in modo che non hanno la piena consapevolezza dei processi e che hanno internamente, quindi possono perdere per 1-2 anni senza accorgersene neanche. Quindi orientamento sui mercati e sui processi interni, queste sono le due leve importanti e su questo cerchiamo di lavorare con loro. Grazie a Bernard Scholz, presidente della Compagnia delle Opere, e Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia, venuti qua nei nostri studi a Matching, alla fiera di Rho, che è poi sostanzialmente la fiera di Milano. Gli ultimi 3 minuti le dedichiamo al tema dei titoli di Stato. Del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che come sempre ci accompagna in questi casi, un buon avvio di settimana direi, con BTP che in apertura è seduto almeno al 2,18%, spread a 140 punti. A cosa dobbiamo questa fase? Solo effetto Draghi, Moria? Sì, al 99% assolutamente sì. Il mercato ormai è convinto che la Banca Centrale Europea azionerà quello che da anni chiamiamo il bazooka, cioè inizierà a stampare moneta in maniera massiccia, perché in parte già in piccole pillole lo sta già facendo, comunque in maniera massiccia comprando titoli di Stato. Questa è la scommessa, l'ha fatta è lo stesso Draghi che ha lasciato intendere che questo potrà accadere, perché ha annunciato che vuole iniettare 1.000 miliardi di liquidità nei prossimi 2 anni e con le misure attualmente già varate non è praticamente possibile arrivare a quel livello. Quindi tutti scommettono ormai sul fatto che dovrà comprare titoli di Stato per stampare moneta. Però Weidmann oggi gli ha detto che è piuttosto complicato farlo. Esattamente. Ma purtroppo è anche vero che è abbastanza complicato tecnicamente, perché in Europa non c'è un unico mercato di titoli di Stato, ma ogni paese ha i suoi. Però questo problema sarebbe facilmente risolto, quindi il problema tecnico, diciamo, porterebbe via un po' di tempo ai tecnici, ma credo che assolutamente si potrebbe fare. Il problema è politico, perché ovviamente la Germania è lo zoccolo duro di alcuni paesi nordici, assolutamente contrario a finanziare gli stati, quindi a stampare moneta comprando titoli di Stato, ed è per questo che la Banca Centrale Europea ha usato questa misura proprio come ultima spiaggia. Il problema è che la situazione economica con rallentamento e soprattutto la situazione dell'inflazione che non dà segnali di ripresa, avvicina molto l'Europa all'ultima spiaggia, per cui per questo il mercato scommette che la BCE inizierà a comprare in maniera massiccia i titoli di Stato, ed è per questo che gli investitori comprano i titoli di Stato prima che la BCE lo faccia, e quindi questo sta abbassando i rendimenti. Grazie a Maria Longo del Sole 24 Ore. Gli altri ringraziamenti: Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione, per la parte tecnica Davide Ciocia, Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.